La poesia di Lorenzo dei Medici, il Magnifico, come vollero chiamarli contemporanei, una voce che giunge a noi da un tempo lontano e che ci riporta a quel secolo splendido che fu il 400. Una voce che allora si levava per unirsi a quelle della natura che formavano il grande concerto terreno, concerto che oggi si è mutato in un fracasso assordante che annulla l'armonia dei vari suoni naturali. Io non sono qui per esporvi un saggio critico su questa poesia, né per annoiarvi con pedanti dissertazioni, ma solo per rendere omaggio all'uomo grandissimo che onorò l'Italia e massimamente Firenze, per gioire insieme a voi della lettura dei suoi versi che ci fanno respirare un'aria pulita ca il profumo dei fiori dei nostri campi. Tra i grandi che dettero alla città del Giglio onore e fama si erge questo vivido sole che portava in sé tutta la ricchezza della quale permeata l'anima toscana, l'anima etrusca. E a questo proposito mi piace di fare mio il pensiero di Werner Keller, autore intelligente dell'opera La civiltà etrusca, il quale scrive come essa non fu mai spenta, ma risbocciò nel nostro rinascimento così come i freschi polloni di una pianta che non crediamo seccata, resuscita con vigore e trasmette ai nuovi germogli un messaggio non spento per sempre, ma soltanto sopito. Sono trascorsi 500 anni da quando il Signore di Firenze creava quella poesia che doveva consacrarlo con Agnolo Poliziano tra i più grandi del suo tempo. Quest'uomo eccezionale, che ebbe un peso così determinante per la storia. Quest'uomo che incoraggiò, protesse l'arte e raccolse tesori inestimabili, fu una di quelle creature destinate a dare un'impronta ad un'epoca, perché oltre alla lungimiranza politica che gli consentì di guidare le sorti di Firenze ed anche della penisola, rispettando le istituzioni con raro equilibrio ed evitando l'intrusione degli stranieri, ebbe anche in dono dalla sorte la divina scintilla della poesia. Se oggi la nostra città possiede tesori incalcolabili, ciò si deve a quella famiglia venuta dal Mugello, quel Mugello che ha dato al paese geni immortali. Tra tutti i medici che si distinsero, egli fu certo il più grande, esteta finissimo, politico, mecenate, poeta squisito. L'amore per la poesia Lorenzo lo ereditò dalla madre Lucrezia Tornabuoni o Tornaquinci, come difatti si nomava la sua casata due secoli prima. Lucrezia fu una forte poetessa e mise al mondo Lorenzo quando era una giovane donna di 24 anni, il primo gennaio del 1449. Mancava un erede maschio. Fino allora erano nate tre femmine che perpetuasse il nome e le opere della famiglia. Il padre Piero era molto ammalato, minato dalla gotta, ed il grande nonno Cosimo il Vecchio molto si crucciava per la mancanza di un erede. Per questo la nascita del piccolo, seguita poi da quella del bel Giuliano, fu accolta con grande festa e tanta gioia. La madre Lucrezia, che noi ravvisiamo negli affreschi del Ghirlandaio e nei dipinti del Botticelli, è certamente la Madonna del Melograno e del Magnificat, dove Lorenzo e Giuliano sono raffigurati nei due angeli molto belli che le stanno al lato. Fu il suocero Cosimo ad ordinare al Botticelli la Madonna del Magnificat, e lo scrive lo storico americano Hugh Rose Williamson nel suo volume edito da Putman and Son di New York. Lucrezia fu donna schiva ma coltissima, dedica alla casa e all'educazione dei figli, una domina discreta ed intelligente, la quale indirizzò i ragazzi fin dalla più tenera età al culto della bellezza, della poesia, della religione. I piccoli furono affidati ad uomini di alto ingegno, tra i quali Gentile Becchi da Urbino, che fu poi vescovo di Arezzo, Marsilio Ficino, Giovanni Argiropulo, un greco illustre profugo da Bisanzio, e molti altri. Mercanti e mecenati, questi signori fiorentini, il corpo e la mente, la solida realtà unita al sogno divenuto arte. Scrivere di Lorenzo è come aprire il sipario su di un palcoscenico splendido, parlare della corte della quale il Magnifico si circondò, corte che gli tenne nelle sue dimore, aperte ai più illuminati ingegni del suo tempo, è come mostrare una collezione di diamanti. Umanisti, pittori, scultori, architetti, filosofi che si nomavano Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti, Ugolino Verino, Michelangelo Buonarroti, Leonardo, il Verrocchio, il Botticelli, il Ghirlandaio, Vespasiano da Bisticci, il Lippi, e potrei continuare per molto tempo. Veri personaggi da fiaba che si muovevano in un mondo creato per loro e da loro, come ha scritto un illustre scrittore fiorentino. Lorenzo sposò Clarice Orsini appena ventenne. Fu padre di 7 figli, Piero, Giovanni, Giuliano, Maddalena, Lucrezia, Luisa e Contessina. Alla medesima età fu a capo della Repubblica a corte e lungimirante. Amò la vita senza ipocrisia e cantò con parole che ancora oggi ci entusiasmano l'amore e la gioia di vivere. Per poter disegnare anche brevemente la figura dell'uomo occorrerebbe molto tempo, ma del resto l'opera sua è ben nota. Come non può essere sufficiente questa tornata per illustrare la sua creazione poetica, che se si tiene conto dei gravosi impegni politici ed anche della brevità della sua vita, si può dire assai vasta. Rileggendolo oggi, noi lo riscopriamo. Attraverso i suoi componimenti poetici ci mostra costumi e persone del suo tempo, e nel modo di esprimersi degli uomini di allora noi ritroviamo un po' della nostra gente di oggi. Purtroppo la civiltà moderna sta impietosamente cancellando quel modo di vivere che gioiva anche delle cose più semplici, come la caccia con richiami al capanno, un ballo campestre, piacevoli conversari, burle. Noi non sappiamo con esattezza quale fosse il vero volto del Magnifico, poiché manca un bel ritratto eseguito da contemporanei. Certamente ve ne saranno stati, ma penso che durante le sommosse che seguirono alcuni anni dopo la sua morte, quando i Medici furono cacciati dalla città, molte opere d'arte saranno state a bella posta sfregiate, distrutte, rubate. Quelli che ce lo mostrano furono eseguiti diversi anni dopo la sua morte, e non crediamo sia proprio esatta l'effigie di profilo che ci appare negli affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Sassetti in Santa Trinita, dove sono palesi i rifacimenti di un brutto restauro. Abbiamo, è vero, il calco ripreso dopo la morte, ma quando la vita è spenta, è pure spenta la reale espressione di un volto. Una mia sorella, che vive negli Stati Uniti, provetta restauratrice, sta portando avanti delle ricerche per dare a personaggi del Ghirlandaio e del Botticelli la vera identità. Purtroppo, quest'uomo nato in un secolo splendido e dotato di altissimo talento ebbe una salute malferma e una vita breve. Per oltre 20 anni la sua forte personalità dette alla città del Giglio un'impronta, e con questa finché gli visse la pace ad una città che poca ne aveva conosciuta. E per festeggiare la Lega trattata in Roma nel 1474 tra il Papa, Napoli, Firenze, Venezia e Milano, Lorenzo bandì la famosa giostra che fu immortalata dai versi del Poliziano. Dopo la congiura dei pazzi, che privò della vita l'amato fratello Giuliano e dalla quale Lorenzo si salvò a stento, il Magnifico, accusato ingiustamente per l'avvenuta impiccagione dell'arcivescovo di Pisa, Francesco Salviati, che fu uno dei partecipanti alla sacrilega congiura, seppe con grande accortezza politica riavvicinarsi al Papa e al re di Napoli, rappacificare gli animi. E somma sciagura per il paese fu la morte del Magnifico, poiché con la sua sparizione mancò quel moderatore che aveva saputo reggere le sorti della sempre travagliata penisola. Come tutti i grandi, egli fu molto invidiato, calunniato ed offeso. Ed anche questo in fondo è cosa naturale, poiché troppo egli fece involontariamente sentire la mediocrità a chi non era stato così come lui dotato dalla natura. Fu detto tiranno, ma tiranno non fu, e questo lo disse tutto il popolo fiorentino quando insorse dopo la congiura, si strinse attorno a lui e fece giustizia sommaria dei suoi nemici, giustizia che sempre Lorenzo deprecò. In quei giorni i canti gioiosi di quel 26 aprile del 1478, i canti che preludevano quelli del maggio, si mutarono nell'ululato spaventoso di una folla che chiedeva giustizia e vendetta. La primavera quell'anno nasceva nel sangue. Fu detto pagano, ma i suoi versi, i suoi inni religiosi ce lo mostrano credente, e questi sono troppo spontanei per poterli tacciare di falsità. Egli amò la vita, amò e seppe vedere con occhi di finissima esteta quella bellezza che ci è stata data affinché gli uomini ne godano nella giusta misura. Nel bellissimo palazzo di Michelozzo in Via Larga e qui nel giardino di San Marco a pochi passi da dove io parlo e nelle tante ville disseminate nei gentili colli toscani si dissertava di poesia, si organizzavano feste e tornei, si viveva principescamente. Ma nella vita di tutti i giorni in famiglia Lorenzo era sobrio, era di gusti semplici come un qualsiasi cittadino di Fiorenza. Nei giorni sereni trascorsi a Careggi, a Cafaggiolo, a Poggio a Caiano, lontano dalle noie della politica, Lorenzo scriveva poesia, si cantava il maggio a Firenze. La primavera sboccia e fiorisce le splendide colline che fanno da corona questa città di mercanti, banchieri ed artisti. In selve d'amore così il poeta si esprime per dirci del nascere della bella stagione. Vedrai le piagge di color diversi coprirsi come primavera suone, né più la terra del tempo dolersi, ma vestirsi di rose e di viole, e i segni in cielo al dolce tempo avversi farà dolce e benigni il nuovo sole, e la dura stagion frigida e tarda non si conoscerà se ella si guarda. E dalle canzoni ecchi i famosi versi: oh, quante cose in gioventù si sprezza, quanto son belli i fiori a primavera. Brava, brava. Sono parole molto semplici, ma che pure ci descrivono con dolce realtà il nascere della buona stagione. In poesia si studiavano e si amavano i classici: Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante, Petrarca. Un evento straordinario aveva seguito la nascita del Magnifico, l'invenzione della stampa che avrebbe di lì a poco rivoluzionato il mondo. I Medici erano appassionati collezionisti di volumi rari. Cosimo il Vecchio, Piero e Lorenzo mandavano i loro bibliofili nel Pireo, nel Bosforo, affinché raccogliessero volumi preziosi, codici miniati, preziosi manoscritti, opere scientifiche, opere di poesia greca e subito dopo i primi incunaboli. Un'enorme raccolta che formò quella monumentale biblioteca laurenziana che fu in origine la biblioteca privata della famiglia Medici, e che dopo varie peripezie, dopo essere stata portata via da Firenze, fu sistemata nell'edificio disegnato da Michelangelo e voluto dal cardinale Giulio de' Medici, poi Papa Clemente VII, che salvò questa monumentale collezione. Dunque non ci meravigli il fatto di come la poesia di quei tempi avesse un gran riferimento con quella del passato. Però Lorenzo, con freschezza e arguzia tutta toscana, dette molto spesso un'impronta personale alle sue creazioni. Nella bella villa di Careggi, dove amava di trascorrere molto del suo tempo, si andava a caccia nei boschi che circondavano la villa, cacciate modeste per lo più, ma anche caccia col falcone, una caccia alla quale assistevano uomini illustri e gentildonne, e di questa il Magnifico ci ha lasciato quel gioiello poetico che è la caccia col falcone, un poemetto descrittivo scritto in uno stile naturale, disinvolto, che narra di tutti i piccoli fatti avvenuti, le battute scherzose, e che comincia: era già rosso tutto l'Oriente e le cime dei monti parien d'oro. La passeretta schiamazzarsi sente e il contadin tornava al suo lavoro. Le stelle eran fuggite e già presente si vedea quasi quel che amò l'alloro. Ritornavansi al bosco in tutta fretta l'allocco, il barbagianni e la civetta. La volpe ritornava alla sua tana e il lupo ritornava al suo deserto. Era venuta e sparita Diana, però egli saria suto scoperto. Avea già la sollecita villana alle pecore a porci l'uscio aperto, netta era l'aria, fresca e cristallina, e da sperar buon dì per la mattina. È questo un quadretto che ci mostra con tanta semplicità e naturalezza quelle albe che preludono alle cacciate, ed il poeta poi descrive le fasi di una di queste anche mettendo in risalto spunti comici, come quando il falconiere, addormentatosi sul cavallo, precipita a terra trascinando con sé lo sparviere, che pare uscisse piuttosto malconcio da questa avventura, tanto da far dire al poeta: meglio era stamattina restar nel letto come fe Gismondo. Se mi restavo a casa nel mio letto, per me meglio era e per gli uccellatori. Messo a re il desinar ben in assetto e la tovaglia adorna di bei fiori. Meglio è straccar la coltrice e il guanciale che il cavallo e il famiglio farsi male. È proprio da questo poetale burlesco e casalingo che vien fuori il carattere di Lorenzo, grande in arte e in politica, ma proprio come tutti i grandi, a volte fanciullesco, semplice come un popolano fiorentino, pronto allo scherzo e alla battuta frizzante, colto, ma che non per questo disdegna la compagnia degli umili che lo accompagnano in queste sue scorribande nei boschi, e quando si rivolge ai cani per incitarli, rimproverarli e rivolge loro la parola, sembra proprio di leggere la descrizione di una delle nostre odierne cacciate maremmane al cinghiale. Tira, buon can, tira su, cammina. Andianne, torna qui, torna. Ha sciagurato tamburo e guerrina. Abbiate cura a Serchio, che soggiorna. A bugiardo, a poltron, volgi rossina. Guata, buon can, guata, brigata d'orna. Nella poesia amorosa Lorenzo è tenero, casto, mischia concetti di alta poesia con espressioni che ci riportano dal cielo in terra, perché umano è l'amore, anche se protagonisti delle sue creazioni sono spesso dei, ninfe, fauni. Esaminiamo ora un altro componimento poetico, il Corinto, Eglogan terza rima, che pure con le sue reminiscenze classiche è cosa talmente fresca, personale, da incantare. Io ne leggerò alcune parti perché è opera piuttosto lunga che meriterebbe una tornata tutta per sé. È il lamento amoroso del pastore Corinto che non si sente accettato dalla bella ninfa Galatea. È una poesia serena che ci comunica dolcezza e che ci fa sognare un mondo allietato soltanto dalle voci della natura. Una natura ancora vergine, non profanata da quello che noi chiamiamo successo. Progresso. La luna in mezzo alle minori stelle chiara fulgea nel ciel, quieto e sereno, quasi ascondendo lo splendor di quelle. E il sonno aveva ogni animal terreno dalle fatiche lor diurne sciolti. E il mondo è d'ombre e di silenzio pieno. Sol Corinto pastor nei boschi folti cantava per amor di Galatea tra faggi, e non v'è altri che l'ascolti, né alle luci lacrimose aveva data quiete alcuna, anzi soletto con questi versi il suo amore piangeva. O Galatea, perché tanto in dispetto hai Corinto pastor che t'ama tanto? Perché vuoi tu che mora il poveretto? Qual siano i miei sospiri e il triste pianto, odono i boschi e tu notte lo senti, poch'io son sotto il tuo stellato ammanto. Grazie, ma la ninfa non si commuove ed il misero pastore così continua. Fu o questo o il vento a lei lo porti seco. Io so che il pianto in pietra non si semina, forse ode ella vicina in qualche specie. Non so se sei qui presso, so ben io, fuggi dove tu vuoi, sempre son teco. Se il tuo crudo voler fosse più pio, se io ti vedessi qui, se io ti toccassi le bianche mani e il tuo bel viso, oddio, se meco sopra l'erba ti posassi, della scorza faria d'un lento salcio una zampogna, e vorrei tu cantassi, l'erranti chiome poi, stretto in un troncio, vedrai per l'erba il candido pie muovere ballando e dare al vento qualche calcio. Poi stanca giaceresti sotto un rovere, io pel prato correi diversi fiori e sopra il viso tuo gli farei piovere. Basta così, sentite. Sentite che gentilezza di immagini, quanta tenerezza pur nel disinganno patito. Sembrano queste parole pennellate di colore gettate giù senza pentimenti e proprio per questo vive, vibranti. Leggendo questi versi mi vengono in mente i dipinti del Botticelli, la primavera e la nascita di Venere. Inutili sono tutti i lamenti di Corinto, le parole che gli spende per lodarsi, per descriversi, e quando si rende conto che tutto è vano, finisce con un ammonimento ed un consiglio. Questa poesia è una dimostrazione di come il più profondo dei sentimenti e dei pensieri possa venire espresso con concetti semplici recepiti da ognuno. E proprio in questo sta la grandezza dell'arte. Sono versi pervasi di tristezza, poiché tutta la poesia del Magnifico è un misto di malinconia e di giocondità. Bello è il paragone che egli fa tra la brevità della vita di una rosa e quella della gioventù. Sempre da Corinto. Eranvi rose candide e vermiglie, alcuna a foglia al sol si spiega, stretta prima, poi par s'apra e scompiglia. Altra più giovinetta si dislega appena dalla boccia. Eravi ancora chi le sue chiuse foglie all'aer niega, altra cadendo a pie il terreno infiora. Così le vidi nascere e morire e passar lor vaghezza in men di un'ora, quando languenti e pallide vidire le foglie a terra, allor mi venne in mente che vana cosa è il giovenil fiorire. Ogni arbore ha suoi fiori, e mantinente può le tenere fronti al sol si piegano, quando rinnovellar l'aere si sente. I picciol frutti ancora informi allegano, che a poco talor tanto ingrossano, che per gran peso i forti rami piegano, né senza gran periglio portar possono il proprio peso. Appena regger sogliono crescendo, ad ora se l'addossano. Vien poi l'autunno e maturi si cogliono i dolci pomi, e passato il bel tempo di fior, di frutti e fronte, al fin si spogliono. Cogli la rosa, o ninfa, or che il bel tempo. Zitti, per favore. Spesso il Magnifico ricorre a quest'immagine del tempo che fugge, è come un presagio sulla brevità della sua esistenza. Per quanto il poemetto Corinto è delicato, leggero, pervaso da un'atmosfera di sogno, tanto quello della Nencia da Barberino è solido e reale. È questo un poemetto dal gusto tutto toscano, la descrizione di un amore campagnolo, e Lorenzo qui usa un linguaggio burlesco, esasperato direi, nei paragoni e nella forma. E del resto questo si trova anche nei poeti antichissimi. Ecco alcuni versi che ci descrivono questa bellezza casalinga. Ardo d'amore e conviemmi cantare per una dama che mi strugge il cuore. Cognotta che io la sento ricordare, il cor mi brilla e par che gli esca fuori. Ella non trova di bellezza pare, con gli occhi getta fiaccole d'amore. Io sono stato in città e castella e mai non vidi niuna tanto bella. Ed ha due occhi che par una festa quando ella li alza e che ella ti guata. Ed in quel mezzo ha il naso tanto bello che par proprio bucato col succhiello. Le labbra rosse paion di corallo ed avvid rento due filar di denti che son più bianchi di quei di cavallo. Qui è proprio lo spirito toscano che prende il sopravvento. Certamente la Nencia è stata creatura reale, magari conosciuta dal Magnifico, poiché Barberino è a poca distanza da Cafaggiolo, dove il Magnifico si recava sovente. Nel descriverla Lorenzo usa bella posta questo tono caricaturale, perché dopo aver nomato Fioraliso senza foglie la fanciulla, ecco che esce con quest'altra descrizione. Ben si potrà tener santo e beato che si contenti tutte le sue voglie d'aver la Nencia e tenersela in braccio, morbida e bianca che pare un sugnaccio. È un contadino colui che tesse le lodi di questa donna, e Lorenzo sembra proprio divertirsi, eppur con i suoi paradossali paragoni riesce a mostrarci questa Nencia fresca e campagnola, sana come un pomo maturo, morbida come una bianca ricotta nostrana. O che sia amore paesano, mitologico, platonico, è sempre questo l'argomento conduttore della poesia del Magnifico, il Lorenzo delle selve d'amore, dove il poeta dice del suo innamoramento per la donna bella, il suo dolore per la di lei scomparsa e la gioia per il suo riapparire. Seppur la donna bella non mi rendi, serri un placido sonno gli occhi molli. Se dormendo la veggo, tu difendi la vita coi pensieri erranti e folli. O sonno, che col pianto ognor contendi di prender gli occhi, spiana gli alti colli, l'aspra via leva, e sassi, e boschi, e fiumi, e mostrami d'appresso i vaghi lumi. Io veggo non so che nell'ombra scura un fuoco e che di cielo in terra casca quasi un vapore, e la sua luce pura arriva in terra e par che lì rinasca. Torna la fiamma in verso il cielo e dura senza che novo nutrimento il pasca. Qualche propizio nume agli occhi mostra che presto rivedrem la donna nostra. Oh. Ed ancora in selve d'amore, dolce e bella catena al collo misse quel lieto dì la delicata mano ch'aperse il petto e dentro al core scrisse quel nome e scelse il bel sembiante umano. Con volontario fren gli occhi costrinse lei sol mirar, non questa cosa o quella. Mille vari pensieri in un ristrinse, né poi la lingua mia d'altro favella, né cercan altro gli amorosi passi, con lei sempre il mio cor legato sta. Potete anche applaudire tutto insieme. E termina: o vaghi occhi amorosi, che in questo e in quel bel viso, quando mirate fiso, vedete mille bellezze diverse. Mentre vi sono ascosi questi due vaghi lumi, stolto alcun non presumi aver veduto la bellezza intera. Qui è la beltà vera tutta accolta in un volto, quinci l'esempio han colto l'altre che in varie cose son disperse. Chi questa beltà mira di eterno e dolce amor sempre sospira. Grazie. E vi è poi il Lorenzo dell'altercazione. L'altercazione è un poemetto giovanile del Magnifico e fu scritto dopo una disputa filosofica tra lui e Marsilio Ficino, avvenuta nella villa di Careggi. Disputa che verteva sul modo di concepire la gioia del vivere, cioè se questa si raggiungeva vivendo alla maniera semplice dei contadini oppure in quella più lussuosa della città, al che il filosofo rispondeva che nessuno può trovare sulla terra quella felicità che ognuno brama, ma che questa può soltanto trovarsi nella virtù e nell'amore celeste. Ne leggo alcuni versi. Colui che di quel che ha sol si contenta, ricco mi par, e non che quel più prezzo ciò che non ha, che quel che suo diventa. Quieta povertà è gran ricchezza, pur che con necessario non contenda. Ricco e non ricco è l'uom come s'avvezza, e non so come alcun biasmi o riprenda la mente che contenta è di se stessa e laudi quella che d'altrui dipenda. Parole sagge che hanno in sé, se fossero ascoltate, il segreto per essere sempre felici. Tra i lavori del Magnifico vanno ricordati il poemetto Ambra, quello de Beoni, i sonetti, le laudi spirituali dove il sentimento religioso si manifesta spontaneo, i trionfi e i canti carnascialeschi. Tutta la poesia di Lorenzo è un canto d'amore, quello terreno e quello ultraterreno, e sempre, anche nelle canzoni a ballo e di carnevale, sotto l'apparente gaiezza, quella sottile punta di malinconia. Chi tempo aspetta, assai tempo si strugge, e il tempo non aspetta, ma via con te. Sempre questo rimpianto per una giovinezza certo non goduta, anche se si è al vertice della potenza. Un uomo che appena ventenne ha sì gravi problemi, come può aver goduto della bella stagione? E vi anche dell'amarezza velata da un umorismo sottile, quando nei famosi versi delle fanciulle e delle cicale, da un colpo di frusta e maldicenti e a pettegoli che certamente non mancarono di lanciare strali verso di lui. Ora io leggo solo quello che dicono le fanciulle. Donne, siam come vedete fanciullette vaghe e liete. Noi ci andiam dando di letto come Susa il carnasciale. L'altri bene hanno in dispetto gli invidiosi e le cicale. Poi si sfogan con dir male le cicale che vedete. Noi siam pure sventurate, le cicale in preda c'hanno, che non cantan sol estate, anzi duran tutto l'anno. A color che peggio fanno, sempre dir peggio udirete. Or che val nostra bellezza? Se si perde, poco vale. Viva amore e gentilezza, muoia invidia alle cicale. Dica pur chi vuol dir male. Noi faremo e voi direte. Ma ecco il magnifico delle laudi spirituali, l'uomo che ha fatto tesoro degli insegnamenti della Pia Madre e di Gentile Becchi d'Urbino, un Lorenzo che così scrive: «O Dio, o sommo bene, or come fai che tesso il cerco e non ritrovo mai? Lasso, se io cerco questa cosa o quella, te cerco in esse, o dolce Signor mio, tu sei per tutto, in ogni luogo, o Dio, e in alcun luogo non ti trovo mai». In queste parole racchiuso tutto il sentimento di fede e il desiderio di una creatura che cerca la sua luce, fragile nonostante la potenza, piccolo uomo di fronte all'immenso. Dunque non pagano, non miscredente, come certo lo pensò il suo grande antagonista Fra Gerolamo Savonarola, ma un credente, una creatura imperfetta, come imperfetti, ahimè, lo siamo tutti, ma proteso verso la verità e il suo Dio, e non dimentichiamo che ogni uomo è parte spirito, parte materia. La nostra eterna sete mai non spegne l'acqua corrente di questo o quel rivo. O santa acqua, se a quel fonte arrivo, berrò e sete non avrò più mai. Parole queste sgorgate dall'anima, parole di un uomo che cerca e dice: tanto amo te, ogni cosa ho in dispetto. I sonetti sono 50 e i primi 4 furono ispirati al poeta dalla morte della bellissima Simonetta Cattaneo, andata sposa a un Vespucci all'età di 16 anni e morta a poco più di 17 anni. Regina di tutte le feste e di tutti i tornei, aveva innamorato di sé tutta la città. Noi possiamo ammirarla nei dipinti del Botticelli, La nascita di Venere e Nella primavera. Amata platonicamente dal bel Giuliano e certo anche da Lorenzo stesso. E commentando il poeta questi suoi primi sonetti scrive: «Morì nella città una donna, la quale mossa a compassione tutto il popolo fiorentino». Gran meraviglia, perché di bellezza e di gentilezza umana era veramente ornata. E così continua: era notte ed andavamo insieme parlando di questa comune iattura un mio carissimo amico ed io. E così parlando, ed essendo il tempo molto sereno, volgendo gli occhi a una stella chiarissima, la quale verso occidente si vedea di tanto splendore certamente, che non solo di gran lunga l'altre stelle superava, ma era tanto lucida che faceva fare qualche ombra a quegli corpi che a tal luce si opponevano. Ed avendone di principio ammirazione, volta a questo mio amico dissi: non ce ne meravigliamo, perché l'anima di quella gentilissima o è trasformata in questa nuova stella o si è congiunta con essa. E l'uomo, il poeta, scrisse: o chiara stella, che coraggi tuoi togli all'altre vicine stelle il lume? Perché splendi assa più che il tuo costume? Perché con Febo ancor contender vuoi? Forse begli occhi, i quali ha tolto a noi morte crudel, com'hai troppo presume, accolti ha in te. Adorna del lor lume il suo bel carro a Febo, chieder puoi. O questa, o nuova stella che tu sia, che di splendor novello adorni il cielo, chiamata esaldi o nume, i voti nostri, leva dello splendor tuo tanta via, che agli occhi che han d'eterno pianto zelo, senz'altro offensio, lieta ti mostri. Grazie. Molti di questi sonetti sono dedicati, o penso, ad un amore che riteniamo immaginario. Oppure Lorenzo non ha dimenticato la bella Lucrezia Donati, amore della sua adolescenza. Candida bella e delicata mano, ove amore e natura poser quelle leggiadre dita, sì gentili e belle, ogni altra opera lor par fatta in vano. Tu traesti dal petto il cor pian piano per la piaga che fer le vaghe stelle. Tu legasti il mio cuor con mille nodi, tu il formasti di nuovo, e poi che fue gentil fatto per te, rompesti i lacci. S'egli è fatto gentil, non convien più e cercar per rilegarlo nuovi modi, o pensar ch'altra cosa mai gli piace. E la bellezza femminile, per un esteta quale fu il Magnifico, è sempre fonte di ispirazione. Egli canta quel giogo che gioia dolcissima ed insieme catena in selve d'amore. Non già così la mia bella catena stringe il mio cor gentil pien di dolcezza. Di tre nodi composto, lieto il mena con le sue mani. Il primo fe bellezza, la pietà l'altro per sì dolce pena, e l'altro amore. Né tempo alcun li spezza, la bella mano insieme poi li strinse e di sì dolce laccio il cor avvinse. Ed ancora quel giorno adunque che nel cor dipinse quell'amorosa man l'immagin bella, con volontario fren gli occhi costrinse, lei sol mirar non questa cosa o quella. Dai sonetti e canzoni mi piace leggere ora questi versi, dove il poeta canta di come gli sguardi della donna amata abbiano avuto il potere di risvegliare nel cuore dell'uomo i sentimenti, così come il primo raggio del sole incita le api a riprendere il loro lavoro. Quando raggio di sole, per piccola fessura dell'api entrando nella casa oscura, al dolce tempo le riscalda e desta. Escono accese di novella cura per la vaga foresta, predando disiose or quella o questa specie di fior di che la terra adorna. Qual esce fuor, qual torna, carca di bella ed odorata preda, qual sollecita e strigne, s'avvien ch'alcuno oziosa all'opra veda, altra il vil fuco spigne, ch'invan l'altrui fatica goder vuole. Così di vari fior, di fronde d'erba, saggia e parca fa il mel, qual di poi serba, quando il mondo non ha rose o viole. Venne per gli occhi pria, nel petto tenebroso, degli occhi vaghi il bel raggio amoroso, e destò ciascun spirito che dormiva. Sparto nel petto, senza cure ozioso, ma tosto che senghiva in mezzo al cor la bella luce viva. Dolce, serena, è la primavera fiorentina che Lorenzo ha cantato. Fioriscono i colli, fiorisce l'amore, ed il canto degli uomini si propaga di strada in strada, di colle in colle, portato dal vento che trascina con sé voci, profumi. Tra poco si canterà, ben venga maggio, la canzone di Agnolo Poliziano, e le belle Madonne fiorentine usciranno in festa recando in mano un arboscello fiorito, adorne dei loro splendidi abiti intessuti anche di fili d'oro per andare incontro alla gioia. Ma Lorenzo non canterà la primavera del 1492 ponendosi alla testa della colonna festante che si snoda per le vie della città, perché il 9 aprile di quell'anno il ciclo della sua vita terrena si chiude a 43 anni. Dunque la primavera non porta quell'anno gioia all'illuminato signore di Firenze. Fu un aprile funesto, quello del 1478, quando vide cadere nel luogo santo l'amato fratello Giuliano e per poco non seguì la sua sorte. È un altro funesto aprile, questo che chiude il canto che ancora gli urge nel petto. L'uomo da tanti amato, ammirato, osannato, l'uomo potente che ha illuminato di sé tutta la penisola, muore, pago di quell'appellativo di magnifico che tanto bene si adattava alla sua persona. Non aveva voluto mai alcun titolo nobiliare, essendosi sempre considerato solo un cittadino di Firenze, seguendo in questo l'esempio del nonno e del padre. Come un sole fulgido illuminò la sua terra e ne impersonò i pregi, primo tra tutti quello alto dell'ingegno. Il Magnifico non ebbe successori, come del resto non li hanno mai gli uomini di altissima levatura, e come tutti grandi suscitò immenso odio e immenso amore. La sua fine cambiò il destino della città ed anche d'Italia, e Firenze dopo 4 anni perse quella libertà che la lungimiranza di Lorenzo le aveva assicurato. Morì prima di poter conoscere eventi meravigliosi. Solo 4 mesi dopo la sua morte, un altro grande italiano, Cristoforo Colombo, partiva verso quelle terre che poi si rivelarono essere un nuovo mondo. Dopo di lui un fiorentino, Amerigo Vespucci, con un'intelligente rotta sud-ovest, raggiungeva in soli 37 giorni quelle terre ed aveva la percezione di trovarci di fronte ad un continente fino allora ignorato. Lorenzo fu una creatura splendida ed oggi che lo ricordo qui per la camerata dei poeti sento di non aver usato parole adatte per nomarlo come egli merita. Chiudo ora questa mia modesta tornata con i suoi versi più famosi, quelli che milioni di uomini di tutto il mondo conoscono, un inno alla gioia di vivere, alla felicità dell'attimo fuggente, un inno alla vita vissuta senza ipocrisia. L'anima di Lorenzo esce da queste parole ed è l'anima stessa di questa nostra città, l'anima etrusca che ancora palpita in noi. Quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe e altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati per caverne e per boschetti al lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati ballan, saltan tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Donne, giovanetti, amanti, viva Bacco e viva amore, ciascun suoni, balli, canti, arda di dolcezza il core. Non fatica, non dolore, quel che esser convien sia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Thank you.